nel mano il nostro libro di testo è intitolato Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana, e abbiamo terminato il capitolo secondo intitolato Il Principe delle Tenebre, e in questo capitolo noi abbiamo richiamato alcune idee molto importanti. Innanzitutto Satana è il Principe delle Tenebre perché il regno che lui vuole costruire è il regno opposto a Dio, che è luce, che è verità, che è bellezza, che è santità, che è grazia. Satana costruisce il regno della menzogna, della violenza, dell'odio, e in questo senso veramente è l'anti-Dio, no? E quindi il regno della totale negatività, il regno, quindi se il cielo è il regno dell'amore, Satana è della comunione, l'inferno è il regno dell'odio e della opposizione, della solitudine esistenziale, dell'incomunicabilità. Soprattutto abbiamo però, sotto il profilo proprio del combattimento spirituale, messo in evidenza una delle caratteristiche fondamentali di Satana, che è quella di nascondersi. E abbiamo visto con quale grande servigio si rechi al maligno quando noi diciamo che non esiste, non si offende affatto di questa nostra affermazione, quando noi diciamo che è inoffensivo, non è così pericoloso, quando diciamo che l'inferno è vuoto, quando diciamo che anche Satana si può convertire, eccetera. Tutte queste affermazioni in pratica fanno il suo gioco, sono tutte affermazioni che hanno nessun riscontro biblico, perché io credo che se sono delle persone che credono di fare, a parte il fatto che c'è un dovere di lealtà soprattutto da parte dei sacerdoti, visto che i sacerdoti sono i rappresentanti della Chiesa, devono insegnare la dottrina della Chiesa, quindi non si vede perché al riguardo devono insegnare alcuni devono insegnare opinioni proprie che sono contrarie all'insegnamento della Chiesa. E soprattutto quello che colpisce è che si fanno affermazioni avventate, azzardate, in contrasto con l'insegnamento della Chiesa, senza produrre nessuna documentazione biblica. In nessuna parte della Bibbia si dice che l'inferno è vuoto, anzi, se voi leggete l'Apocalisse, se voi leggete il capitolo 25 di San Matteo, Gesù si rivolge alla parte sinistra e dice: avevo fame, non mi avete dato da mangiare, eccetera, poi dice: via da me maledetti. Non è che si rivolga all'aria, si rivolge a delle persone. Come pure l'Apocalisse e le lettere degli Apostoli, le parole di Gesù parlano chiaramente. L'Apocalisse, che descrive lo scenario finale, dice che insieme a Satana e i suoi rappresentanti qui sulla terra, le bestie, come le chiama l'Apocalisse, eccetera, no? I falsi profeti, eccetera, andranno con lui nello stagno di zolfo di fuoco, tutti gli increduli, gli avari, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, eccetera. Quindi si fanno affermazioni che hanno nessun fondamento nella realtà biblica. In quale punto della Bibbia si dice che alla fine dei tempi il male, il maligno, le anime date si convertiranno? Dove? In quale parte? La tua mente malata produce queste affermazioni. Su questi argomenti, cari amici, noi possiamo dire soltanto quello che ci ha detto Dio. E Dio ci ha parlato attraverso la Bibbia. E attraverso la Bibbia esce un'immagine del maligno che non è affatto rassicurante. Noi abbiamo visto con molta chiarezza, e lo vedremo poi nell'analisi delle varie affermazioni bibliche, che il maligno è colui che irrevocabilmente, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è diventato l'avversario di Dio. Infatti la parola Satana vuol dire avversario. Satana vuol dire avversario. È l'avversario di Dio ed è il nemico dell'uomo. E anche le immagini bibliche che lo descrivono non sono affatto rassicuranti, perché sono l'immagine del serpente, del dragone rosso infuriato e del leone ruggente che va in cerca di chi divorare. Quindi ciò che circola spesso su Satana non ha nessun fondamento biblico, ma neanche lontano. La parola di Dio ci mette in evidenza un avversario di Dio determinato a strappare le anime a Dio e a portare con sé nella dannazione eterna. E la Bibbia ci mostra un avversario infaticabile, il quale non può farci nulla, è vero, senza il nostro consenso, ma comunque riesce a sedurci, riesce a ingannarci e punta a costruire un regno alternativo al regno di Dio, ed è talmente sfacciato, è talmente, non so come chiamarlo, sfacciato da osare perfino a insidiare e a affrontare il figlio di Dio fatto uomo. Questa è la realtà di Satana come ci appare dalla Sacra Scrittura, soprattutto dalla parola di Cristo, poi riecheggiata dalla parola degli Apostoli. D'altra parte, se noi leggiamo l'Apocalisse, vedremo che l'Apocalisse è il libro della grande battaglia fra le potenze del male e la Chiesa, e Cristo, da una parte c'è Cristo e la Chiesa, dall'altra le potenze del male, e vediamo che le potenze del male fino alla fine cercheranno di distruggere il popolo di Dio, fino all'ultimo, anzi proprio la fase finale della storia umana sarà caratterizzata dalla grande impostura, quando Satana riuscirà a produrre qui su questa terra il suo figlio primogenito, che è appunto l'anticristo. Allora vedete, cari amici, come certe idee che circolano sul maligno, e soprattutto nel sottobosco, qualche volta anche apertamente, non hanno nessun, oltre che essere contrarie alla dottrina della Chiesa, non hanno nessun fondamento biblico. E quindi sono chiaramente tentativi, diciamo così, molto nocivi alla fede, quello di sminuire la presenza del male o anche di cercare di velarne la pericolosità. E abbiamo anche detto, e anche questo è un punto molto importante, perché molte persone si chiedono, ma come possiamo, se Satana si nasconde, si cela, cerca di mimetizzarsi, come facciamo a scoprirlo? E noi abbiamo dato una risposta ben precisa nell'ultimo paragrafo del capitolo secondo, l'abbiamo spiegato ieri, siamo a pagina 18, dove appunto ho detto che se una persona dimora nella luce, se una persona alimenta la preghiera, ebbene, Dio gli dà la grazia di scoprire il maligno. Quando, per esempio, in determinate situazioni noi ci rendiamo conto che sono situazioni di tentazione, cioè noi ci rendiamo conto che siamo tentati, ecco, appena noi ci accorgiamo di questo, appena noi apriamo gli occhi su questo, è chiaro che siamo già molto avvantaggiati, abbiamo già ricevuto una grande grazia. Perché molte volte noi soccombiamo alla tentazione senza neanche renderci conto che era una tentazione, ci ce ne accorgiamo dopo, quando ormai siamo stati intrappolati. Quindi, se una persona dimora nella luce, ha la luce per scoprire il maligno e le sue insidie, e Dio gli dà anche la grazia non solo di vincere il maligno, ma di scoprirlo, perché lo si può scoprire se lo si vince. Ecco, va anche detto, cari amici, comunque, che oggi c'è in giro troppa gente che non ha una preparazione teologica, che si attribuisce carismi, visioni, locuzioni. Oggi è pieno di troppa gente che ama il palcoscenico, che ama dottoreggiare nei gruppi, perché hanno scoperto, perché hanno ricevuto la grazia, perché Dio li ha scelti, perché poi dicono un sacco di sproloqui anche sotto il profilo teologico, perché non sono fondate sulla fede, non sono persone formate alla fede, non sono persone che hanno approfondito la fede, non sono persone che hanno un orizzonte globale della fede e dicono un sacco di sciocchezze. E questo avviene molte volte nei gruppi. Molte volte nei gruppi, invece di attenersi alla dottrina della Chiesa, che è quella che è contenuta nella Bibbia e nel Magistero della Chiesa, si fa riferimento ai messaggi di sedicenti veggenti o di sedicenti aventi locuzioni interiori, ed è da lì, da questo sottobosco, che molte volte escono le idee più strampalate sul demonio. Dette, non dette, insinuate, eccetera, eccetera, no? Quindi bisogna guardarsi, aprire gli occhi, e credetemi, cari amici, guardate che oggi abbiamo questo grande dono di Dio che è, voi sapete come la Regina della Pace ha insistito perché ogni giorno si legga la Bibbia e si cerchi di viverla, ma tutta intera, però non cercando di selezionare le verità che fanno comodo. E abbiamo questo grande dono del Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi abbiamo dei doveri anche di formazione e di istruzione che ci immunizzano da tante forme, da tanti piccoli falsi profeti che oggi circolano. Oggi però, cari amici, vogliamo affrontare il capitolo terzo sull'origine del male. Cioè, dobbiamo porci il problema e chiederci esattamente da dove ha origine Satana. Perché il male, non dimentichiamo, il male è innanzitutto una persona, è la persona di Satana. Cioè, quando l'angelo ribelle e tutti quelli che l'hanno seguito hanno pervertito se stessi in un modo irrevocabile, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, è allora che è nato il male. Il male è innanzitutto una persona, quella di una creatura libera e intelligente, che si è staccata da Dio, che si è ribellata a Dio, che si è opposta a Dio. Questo è il male. E naturalmente questa persona poi ha insidiato l'uomo, il quale ha aderito, e da qui poi sono nati tutti i mali che noi patiamo oggi qui su questa terra. Allora è molto importante, cari amici, conoscere l'origine esatta del maligno, anche perché dobbiamo capirlo nella sua realtà, cioè per quanto potente sia, per quanto forte sia, per quanto malvagio sia, è comunque una creatura. È comunque una creatura quindi limitata, e quindi non c'è paragone fra la potenza di Cristo che è Dio e la potenza del maligno che è una creatura. Non c'è paragone. Per cui se un ridimensionamento ci deve essere del maligno, questo va fatto non dicendo che il maligno tutto sommato non è pericoloso, no, è certamente molto più forte di noi, molto più astuto di noi. Basti pensare, cari amici, chi di voi non ha fatto l'esperienza della tentazione, quando in furia noi siamo sbattuti come le foglie al vento. Mi ricordo un messaggio della Regina della Pace, il padre dell'88, dove lei dice: Satana mi sta sbattendo come le foglie al vento. Quindi non si può negare la sua potenza e la sua forza e la sua pericolosità, però in che modo va ridimensionato? Va ridimensionato dicendo che lui comunque è una creatura, comunque è sottomesso a Dio non per volontà ma per diritto di creazione, perché di Dio è l'onnipotenza. Dio ne limita la forza, non può fare nulla che Dio non permetta, neanche la tentazione, non può fare quello che vuole, è nei limiti della creaturalità. E comunque Satana soggetto a Dio, non nel senso di sottomissione, ma nel senso che è costretto ad accettare, a subire la potenza di Dio. Quindi, se si vuole ridimensionare Satana, lo si deve fare dicendo che comunque Cristo è più forte, e con Cristo possiamo batterlo. Anzi, la Regina della Pace ci dà un'indicazione molto bella, dice: affrontate Satana e vincetelo con il rosario in mano. Perciò Se si vuole ridimensionare il maligno, diciamo che è una creatura che comunque nulla può fare contro la potenza di Cristo. E che noi con la potenza di Cristo possiamo vincerlo. Ecco, questo è il discorso da fare. Non dire che è inoffensivo, che non c'è, che ma insomma dov'è, dove non è. Perché sennò si fa il suo gioco. Allora, vediamo, cari amici, come il maligno ha avuto origine, lo vediamo nel capitolo terzo, intitolato L'origine del male. Vi leggo subito i paragrafi di questo capitolo, così capite voi stessi qual è lo svolgimento del discorso che facciamo. Primo punto che toccheremo, lo toccheremo questa mattina, tutta la creazione è buona. Secondo punto, la caduta degli angeli. Terzo punto, il carattere irrevocabile della scelta degli angeli, per cui Satana non si può convertire. Ultimo punto, il drago precipitato sulla terra, cioè la presenza del maligno qui nel mondo. Dove noi prendiamo queste notizie? Queste notizie non si possono prendere né dalle rivelazioni private né dai nostri ragionamenti. Queste notizie della caduta originale degli angeli ribelli, noi le conosciamo esclusivamente dalla Sacra Scrittura. Quindi qui le informazioni, cari amici, vengono dalla parola di Dio, cioè vengono direttamente da Dio. È Lui che ci ha rivelato tutto questo, è Dio che ci ha rivelato qual è l'origine del male. E intanto incominciamo con la prima affermazione, che è quella fondamentale, e cioè che comunque Satana non è Dio. E non è neanche una creatura creata da Dio, perché Dio non ha creato Satana, Dio ha creato l'angelo buono. E quindi la prima affermazione che bisogna fare è che tutta la creazione è buona, è Satana che si è pervertito, ha pervertito se stesso. Allora prendiamo e leggiamo e commentiamo questo primo paragrafo, tutta la creazione è buona, pagina 20, di chi ha il nostro libro intitolato Il Falsario. Dunque, l'origine del male, scrivo, uno dei più ricorrenti e angosciosi interrogativi dell'umanità nel corso dell'intera sua storia, cioè l'umanità si è sempre interrogata sui mali che affliggono l'esistenza umana e si è anche interrogata sull'origine di quel male misterioso che non riusciva ad afferrare ma di cui sentiva la presenza, che è appunto il maligno. Infatti anche nelle filosofie umane, nelle religioni umane, si parla del demonio anche se in termini molto vaghi. Non si tratta certo di un problema astratto, quello dell'origine del male, quanto piuttosto di una invocazione che sale dal cuore dell'uomo dolente e ferito. Cioè gli uomini di tutti i tempi, cari amici, si sono interrogati chiedendosi perché il dolore, perché il male, perché la morte. Dietro queste domande universali sta l'esperienza degli uomini di tutti i tempi che si rendono conto che la loro vita è crocifissa dal momento della loro nascita fino a quello della morte. Cioè gli uomini, cari amici, e l'uomo venendo al mondo si rende conto che non è felice. E noi abbiamo avuto un grandissimo poeta, Leopardi, che ha descritto questa infelicità esistenziale dell'essere umano. E io una volta ho coniato una frase che mi sembra quanto mai valida, perché fotografa la realtà, cioè che ogni uomo nasce crocifisso, perché è soggetto a tanti mali, di ordine spirituale, di ordine morale, ma anche di ordine fisico. D'altra parte, il capitolo terzo della Bibbia, il capitolo terzo del primo libro della Bibbia, della Genesi, quello della caduta originale, è la ragione, la rivelazione, se vogliamo, che Dio ci dà sui mali dell'uomo. Perché l'uomo è mortale, perché l'uomo soffre, perché l'uomo è violento, eccetera. Perché? Perché si è staccato da Dio. Quindi gli uomini si sono sempre interrogati sul perché della loro condizione esistenziale piena di sofferenze, non soltanto fisiche, malattie, vecchiaia e morte, come diceva il Buddha, ma anche spirituali, tendenza al male, cattiveria chi sia in sé, solitudine, senso di vuoto, angoscia, eccetera, no? Gli uomini si sono sempre interrogati sulla situazione esistenziale di crocifissione nella quale sono nati. Venendo al mondo, l'uomo si scopre passeggero, fragile e limitato. E qualsiasi tentativo per cambiare radicalmente la sua condizione esistenziale, dopo le prime illusioni, si risolve puntualmente in uno scacco. Ecco, da questo punto di vista dobbiamo dire, cari amici, che le varie forme, le varie religioni umane sono nate come tentativi dell'uomo di salvare se stesso, no? Da questo punto di vista anche la scienza si propone come una religione salvifica, naturalmente una falsa religione, e cioè si illude di eliminare la malattia, la vecchiaia e la morte, no? Oggi, ieri leggevo sul giornale che hanno trovato il gene della vecchiaia per cui si può eliminare, eccetera, eccetera. Cioè, tutte queste forme di illusione di poter, che l'uomo ha di poter salvare se stesso. Per esempio il buddismo proponeva la salvezza attraverso la meditazione, la medesima cosa l'induismo. Altre religioni come l'Islam propone la salvezza invece attraverso l'affidamento a Dio. Ma oggi la tendenza prevalente qual è? La tendenza prevalente oggi, la mentalità prevalente è quella, l'illusione di salvare se stessi con le proprie forze, con la propria intelligenza, con la scienza, con la tecnica, con la filosofia. D'altra parte, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, la massima impostura della fine dei tempi sarà la proposta che l'uomo farà di salvare se stesso senza Dio e senza Cristo, per cui cercherà l'eliminazione di Dio, di Cristo e della Chiesa. Ma sono tutte illusioni, cari amici, perché? Perché la condizione umana nostra, non, cioè, vi faccio un esempio che forse ho già fatto in altre occasioni. No? Voi immaginate un essere, voi immaginate di camminare nella giungla e mettete i piedi in una, nelle sabbie mobili, no? Le quali pian piano cominciano a inghiottirvi. Ecco, vi arriva prima alle caviglie, poi alle ginocchia, poi alla cintola, vi arriva sotto le ascelle e voi cercate di afferrare qualcosa e non trovate niente. Allora, ecco la trovata. E alzate le mani, vi pigliate per i capelli e vi illudete di tirarvi su prendendo voi stessi per i capelli. Ecco, questa è la grande impostura, l'illusione dell'uomo di salvare se stesso con le sue sole forze. Perché dalla sofferenza umana, dalla situazione esistenziale umana, di malattia, vecchiaia, morte, peccato, soprattutto il peccato, la cattiveria, la solitudine, il vuoto esistenziale, perché noi abbiamo una sete di felicità che nulla riesce a soddisfare. Chi ci salverà? Diceva Paolo. Chi ci salverà? E Paolo appunto rispondeva, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, no? Quindi, dalla situazione esistenziale di infelicità, aveva ragione Leopardi. Non ci salva nessuno a meno che uno non abbia la fede nel Salvatore. Non ci salva nessuno. Infatti, dopo le prime illusioni che l'uomo fa a se stesso, illudendosi di salvarsi con degli espedienti, tutte queste illusioni poi diventano delusioni e ogni tentativo si risolve puntualmente in uno scacco. La ragione umana ha vagato a lungo nell'incertezza e le prime esaurienti risposte le ha trovate quando, nell'ambito della fede e attingendo alla luce della parola di Dio, ha capito che soltanto dall'esterno, da Dio, poteva giungere la salvezza. Alcune religioni, nel loro brancolare nel buio, hanno perfino ipotizzato l'esistenza di una duplice divinità, una buona che ha creato tutto ciò che di bene viene nel mondo, e una malvagia autrice di tutto ciò che viene di male. Quindi alcune religioni hanno attribuito la situazione di sofferenza che c'è nell'uomo a un dio del male. Questa concezione manichea della realtà ha finito per assolutizzare il male, attribuendogli una forza e una dimensione illimitate. In questa luce Satana, comunque venga concepito o chiamato, diviene il concorrente del Dio buono in una lotta paritaria fra il bene e il male dall'esito incerto. Questa è una concezione molto pericolosa. E cioè che alla fin fine l'uomo, vedendo la situazione di sofferenza in cui si è trovato, l'ha attribuita al Dio del male. Anzi, alcune religioni, specialmente di matrice manichea, hanno detto che l'anima veniva dal Dio buono e il corpo dal Dio cattivo, cioè da Satana. Vedete come ha brancolato la ragione umana nel cercare una soluzione alla sofferenza che c'è nella creazione, al male che c'è nella creazione. Ebbene, la luce della rivelazione che risplende nelle prime pagine della Bibbia ci rassicura riguardo all'intero mare dell'essere nel quale siamo immersi e al quale apparteniamo, sia pure in qualità di creature. Innanzitutto siamo tranquillizzati riguardo alla divinità, cioè esiste un solo Dio che nella sua essenza è tutto bontà, bellezza, verità e amore. Non esiste un Dio malvagio, ma un Dio buono, nel senso più pieno che questa parola può avere. All'origine di tutto, quindi, non c'è il male, ma il bene. Non ci sono le tenebre, ma la luce. Non c'è il dolore, ma la felicità. Non c'è la menzogna, ma la verità. Quindi, all'origine di tutto c'è un Dio che è amore, in cui non c'è nulla di male. Non solo però Dio è un oceano di bontà e di bellezza, ma anche tutto ciò che egli ha tratto dal nulla, con grande potenza, sapienza e amore, ha i caratteri della bontà e della bellezza. Cioè non solo Dio è buono, è la bontà, ma tutta la sua creazione è buona. Nulla di male è venuto da Dio. Il libro della Genesi, la creazione è buona anche se Dio l'ha creata imperfetta e in evoluzione verso la perfezione. Il libro della Genesi non si stanca di ripetere che tutto ciò che Dio ha creato è buono, specificando nel caso dell'uomo che è molto buono, perché è creato ad immagine e somiglianza di Dio stesso. Ma allora ti chiederai giustamente, se Dio è buono, come buona è tutta la sua creazione, qual è dunque l'origine del male, che pure è un'esperienza che ogni uomo fa nella sua vita qui sulla terra? Allora vedremo, cari amici, che proprio fra le realtà invisibili che Dio ha creato, gli angeli, alcuni hanno originato il male facendo uso della loro libertà per opporsi a Dio. È lì, cari amici, che ha avuto origine il male. Ma Dio in se stesso è perfetta bontà e tutta la sua creazione è buona. Non c'è nulla di male. Il male è nato dalla libera scelta di creature alle quali Dio aveva dato il grande dono della libertà, ma questo lo vedremo nel prossimo appuntamento. Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso Il Falesario, a cura di Padre Livio.